oggi a Scienze Politiche un gruppo di studenti Forza Italioti dal nome Progetto Sapienza avevano organizzato nella mattinata una iniziativa dal titolo Esercito Europeo, una iniziativa non più rimandabile. Erano presenti a questo convegno diversi generali e ex generali dell'esercito italiano, nonché alcuni docenti, tra cui spiccava la figura di un certo Augusto Sinagra, che ha sfruttato l'occasione per lanciare la sua campagna elettorale con Alternativa Sociale, che sarebbe l'estrema destra che fa capo alla Mussolini, tutta quella coalizione di forze di estrema destra che si candideranno alle prossime europee. Bene, questa iniziativa ha assunto chiaramente i tratti di una provocazione in un contesto come quello della Facoltà di Scienze Politiche, dove da tempo si vive una situazione di militarizzazione, dove da tempo è in corso un grosso movimento sulla questione della ricerca, sulla questione della guerra e sui nessi che persistono tra la guerra e la ricerca nell'università. Ebbene, quindi stamattina all'inizio del convegno più di 200 studenti hanno contestato in maniera creativa ma estremamente radicale questo convegno, impedendone fin dall'inizio lo svolgimento con diverse azioni di disturbo. Le forze dell'ordine hanno risposto pesantemente a questa nostra iniziativa, cominciando a partire dal commissario stesso, che si è dimostrato del tutto incapace di gestire questa iniziativa, consegnando calci, spintoni e pugni e ferendo anche alcune studentesse e alcuni studenti. Al termine di questa iniziativa le provocazioni alle forze dell'ordine sono continuate, nonostante il convegno repentinamente si fosse chiuso. Le forze dell'ordine hanno invece continuato a fare cordoni di fronte a un'aula già vuota e a spingere gli studenti. A quel punto c'è stata una reazione molto determinata da parte di più di 150 studenti che in corteo hanno spinto fuori dalla facoltà le forze dell'ordine. Il risultato di questa giornata da parte nostra è il dato politico, è un dato di vittoria forte, di riapertura di uno spazio di movimento nell'università. Ci sono però chiaramente le solite poi conseguenze legali, perché 5 studenti dalle ultime notizie sembrerebbero stati denunciati per aggressione e lesioni alle forze dell'ordine, che in realtà sono uscite illese da questa iniziativa e che hanno loro invece ferito alcuni studenti e studentesse. Quindi nel pomeriggio noi, per denunciare questo ulteriore tentativo di criminalizzazione, abbiamo indetto alle 3 una conferenza stampa e abbiamo spiegato quella che è stata la reale dinamica dei fatti, chiarendo che la provocazione e l'uso della forza è stata in qualche modo una prerogativa della polizia. L'azione degli studenti è semplicemente stata un'azione determinata che ha espresso un forte desiderio di rifiuto della militarizzazione e della guerra. È stata un'iniziativa spontanea partita da numerosi studenti e non dai soliti 5 che da più mesi raccolgono di volta in volta sulle proprie teste denunce per reati più o meno simili a quelli per cui oggi siamo stati denunciati.